così sensi di sposo, di vendetta, d'onor, di fe tradita, ella prorompe. Signor! Rence più sempre di Zanaida dispero. Al tuo dolore perdo la pace anch'io, sento il mio errore. Ed umano rimedio fia vana ogni opra, ai pena, o l'ostro e l'oro, e se me stesso a sdegno fisso.